adesso la vita riparte da quest'occasione. Riparte da quello che resta, dalla sua dimensione. Ti trovi per caso in un posto che è in fase col tempo. Che strano, la chiave ora gira e riapre il tuo scrigno. So come sei, so come sei, e so cosa vuoi. Ormai non ho dubbi che cerchi all'interno di noi. Sono certo che cerchi, sono sicuro che vuoi. Allineare frequenze perfette all'interno di noi. È una grande occasione, la speranza che incide senza inizio né fine. Una nuova stagione, come fanno le spine che proteggono un fiore, la sorpresa improvvisa ha toccato il mio cuore. Na na na na na na. Ricordi quel giorno hai raccolto castagne nel bosco, parlando alle spine e spiegando che non era più tempo di restare nascosto, di far sanguinare le dita che sfiorano il muschio. La voce del vento si ferma come fosse un ricordo, ma è certo, qualcosa che vale nel tempo, ora lo so. E poi so come sei, e so cosa vuoi. Ormai non ho dubbi che cerchi all'interno di noi. Sono certo che cerchi, sono sicuro che allineare frequenze perfette all'interno di noi. È una grande occasione, la speranza che incide senza inizio né fine. Una nuova stagione, come fanno le spine che proteggono un fiore, la sorpresa improvvisa ha toccato il mio cuore. Na na na na na.